Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero puntuale fino a mezzogiorno e vi accompagnerà con tante cose oggi, con ingressi gratuiti per esempio alla mostra Miró, Poesia e Luce, quella che c'è a Genova, Palazzo Ducale, insieme a quello che è il catalogo della mostra per chi riuscirà a indovinare i quadri o comunque le opere dell'artista associate a delle canzoni che vi farò ascoltare. Si giocherà alle 11:30, quindi con Miró in 24 minuti, e già che ci siamo vi faccio sentire la prima opera da indovinare grazie a questa canzone. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Questo è l'indizio che vi dovrà portare a indovinare quale opera di Miró può essere legata a questa canzone. Si gioca alle 11:30 in palio il biglietto d'ingresso per la mostra Genova Palazzo Ducale Miró Poesia e Luce e il catalogo della mostra. Il numero verde per partecipare è 800 24 00 24. Veniamo però alla puntata di oggi del riposo del guerriero. Oggi ci occupiamo di pubblicità, la chiamiamo ancora una volta pubblicità, ma che cos'è? Ancora un'anima del commercio oppure si sta trasformando in qualcosa di più? È proprio un modo di vivere, senza accorgerci. Infatti probabilmente la pubblicità ci forma e ci obbliga in qualche modo a vivere secondo dei dettami, no? Che sono quelli della pubblicità, quindi quanto siamo liberi veramente. Di questo oggi parliamo con i nostri ospiti. Alcuni li conoscete sicuramente, li avete già sentiti, altri invece li conoscerete nel corso della puntata. Il numero per i vostri messaggi 349 238 6666, se no c'è la pagina di Facebook del riposo del guerriero. E per iniziare partono una vecchia canzone ma intramontabile di Vasco Rossi. Che è un Vasco Rossi che si fa ascoltare molto, molto volentieri questo di bollicine, anche perché è un Vasco Rossi che imparava e ha imparato a osare e a farcelo, ovviamente, insomma, dimostra il suo grande successo. Bravo, bisogna sempre osare, forse anche in pubblicità. Michele Tosi, ciao, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buona domenica. Grazie. Allora, io comincio subito con la domanda: la pubblicità si sta trasformando in qualcosa di più? È sempre stata così? Ci ha sempre imposto? Dunque, secondo me. Voi ci imponete, che cosa? Esatto, ci imponete? Magari. Io ho sempre dell'idea che ci sia un fattore culturale dove la pubblicità, è vero che influenza, entra nel vissuto, nella quotidianità, e in particolare nelle marche come quella che abbiamo sentito adesso nella canzone di Vasco Rossi. Cioè, possiamo dire che ci sono delle marche sovranazionali che in tutto il globo, e possiamo citarle a memoria o non, sì, citarle se facciamo pubblicità. E quello, infatti, tra virgolette, quando si fanno le puntate sulla pubblicità, sì, il problema è: ma cito, dobbiamo citare la marca per forza, per non forza. Ma anche poi sono marche che comunque, citi o non citi, non è che cambi molto. No, non gli cambia moltissimo. Infatti possiamo dire Nike, Coca-Cola, Levi's, Swatch, eccetera, sono marche che non adeguano la loro pubblicità a seconda del fattore culturale di ogni nazione, perché hanno un loro trend di comunicazione, proprio un fatto, una loro immagine così forte che è un po' come l'influenza che ha la musica, il cinema, eccetera, in tutto il globo. Possiamo dire addirittura il globo. Quindi non viene cambiata la comunicazione, no, pubblicitaria della marca in, no, base, non al in maniera paese rilevante. Sì. Cioè abbiamo dei posizionamenti e delle strategie che sono uguali in tutto il mondo. E questo potremmo dire che è la cosa più influenzante, perché sì, è vero che si parla a un target, sono i cittadini del mondo, insomma, di persone che viaggiano, e cui viaggiando trovano la stessa marca con le stesse caratteristiche, la stessa comunicazione, gli stessi stilemi. E queste forse sono quelle che influenzano di più, perché sono totalizzanti. Molte altre marche sono invece quelle che si devono adeguare alla cultura locale, alle fatti di linguaggio, di altri elementi, di cultura in generale. Il fatto che ci sia un po' la globalizzazione, invece nella condizione pubblicitaria forse questo non è vero, quindi non si può globalizzare. È vero solo per pochissimi esempi, tipo quelli che abbiamo citato. Altri, per motivi legislativi, culturali, religiosi, eccetera, eccetera, invece la globalizzazione non avviene, soprattutto perché la comunicazione fa leva su degli elementi emotivi e culturali, degli stilemi, ma anche delle citazioni, e la citazione nasce proprio da un profondo della cultura di ogni singolo paese. Quindi è un pochino più difficile essere globali quando magari abbiamo... Ecco, quindi nelle pubblicità globalizzate, chiamiamole così... Sì. E credo che in gioco ci siano sempre i buoni sentimenti. Bravo, che valgono per tutto. Un bel jingle. Un bel jingle che a Michele Tosi piace molto. Esatto. E poi che cosa? I buoni sentimenti, la musica, quindi, che unisce tutti. I grandi temi della vittoria, le sfide, i buoni sentimenti. Sono le cose che vanno bene. Sì, sì. I valori generali. Walt Disney che incarna esattamente. La Disney è un'altra di queste che sicuramente quando fa un loro film, una produzione di questo genere, deve andare bene universalmente, se no guai. Aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a parlare di pubblicità anche con voi. 349-238-6666 per gli sms. Il riposo del guerriero. Devo anche salutare gli ascoltatori zelanti che si sono fatti carico in più persone di dire: ah, ma guarda che quella canzone di Vasco Rossi è un inno alla droga. E no, noi abbiamo invece preso la parte pubblicitaria, certo. Parliamo di bollicine, infatti lui esclusivamente. Esatto, di questo abbiamo parlato, ma allora sarebbe un po' come dire: attenzione perché Gloria, la famosa canzone di Vasco, come si chiamava, di Umberto Tozzi. Si riferisce a qualcosa. Altro, sì. All'onanismo in generale, pare che sia così. Oppure Gelato al cioccolato di Pupo, e si riferisce a un'altra azione, cosa. Sì, che è stata anche dichiarata da Malgioglio che scrisse il testo. Quindi, ecco, noi abbiamo parlato delle bollicine. Grazie per essere così zelanti. Uno scrittore dice: la Ferrari non ha bisogno di fare pubblicità, la fai come con le gare. Certo, quello è il più grande spot del mondo in Mondovisione. E poi usa un metodo pubblicitario che non è certo quello di andare in televisione negli spazi pubblicitari. Ha uno spazio dedicato. Sono suo, esatto. Infatti lo dimostra la forza del marchio. Ancora, certo, i negozi Ferrari, le pubblicazioni, i libri, hanno un sacco di altre... Cioè pubblicità non significa soltanto lo spot che vediamo in televisione, certo. Ormai significa molte cose. Molto di più, soprattutto adesso negli ultimi anni è ben altro. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Eccoti qua. Ciao Francesca. Allora, quando si parla di pubblicità, Francesca Dragotto salta sulla sedia, anzi sullo scranno proprio, e comincia a dirne di ogni. Perché abbiamo scoperto una cosa, cara Francesca. Allora, tu da glottologa riesci a leggere delle cose nella pubblicità che nella mente dei pubblicitari proprio non esistono. È vero, come i critici quando guardano un'opera d'arte riescono a vedere al di là di quello che l'artista voleva effettivamente comunicare, tu riesci ad andare al di là di quello che il pubblicitario in realtà voleva dire. Semplicemente, cioè, arrivi molto oltre, e quindi ci aiuti anche a capire questo mestiere, visto che io nasco anche come pubblicitario. E allora, da dove partiamo, Francesca? Beh, innanzitutto da quello che hai detto, perché è vero che chi fa interpretazione, quindi non produce testi pubblicitari come il linguista che si occupa anche di pubblicità, può arrivare a vedere delle cose che ai più non appaiono evidenti, però è anche vero che c'è il rischio dell'iperinterpretazione, della sovrainterpretazione. Io ad esempio più avanti vi proporrò una mia interpretazione dell'ultima campagna Vodafone, non è detto che sia corretta, però secondo me non può che spiegarsi secondo una determinata visione. Però ecco, al di là di questo c'è da dire che il prodotto pubblicitario è un testo breve e che, se pensato bene, deve essere efficace, deve raggiungere un pubblico che è eterogeneo, che è distante, che fruirà del messaggio in occasioni, circostanze differenti, partendo da conoscenze individuali differenti, e quindi la produzione di un buon testo pubblicitario richiede una serie di intelligenze che ci fanno dire quando c'è una bella pubblicità, che bella, e soprattutto ce la fanno ricordare magari non per il motivetto tormentone, ma perché ha lasciato dentro di noi un qualcosa che poi ritorna in momenti differenti, ma ritorna accompagnato, ecco, da un sorriso, non da un senso di fastidio. Ecco, in questo senso, quindi, io lo ribadisco, l'abbiamo già detto anche in altre puntate, è una forma d'arte la pubblicità. Concedetemelo, no? Non siete d'accordo? No. Di un saggio se non puoi esagerato di un paio di ormai di una ventina di anni fa, Ballardini scriveva: all'inizio era il verbo, poi il verbo si nascose e la persuasione divenne occulta. E in qualche modo rende bene sia il ruolo della comunicazione pubblicitaria nei nostri tempi, sia poi in questo Ballardini è stato, insomma, ha preconizzato quanto poi si sarebbe verificato, rende bene quanto di contaminazione si sarebbe verificato nel giro di pochi anni. Quindi il problema oggi non è la pubblicità, ma il fatto che troviamo pubblicità in forme di comunicazione che invece per definizione dovrebbero essere estranee alla pubblicità. Penso alla comunicazione politica, alla comunicazione istituzionale. C'è un contagio, c'è una contaminazione che fa sì che anche nel discorso comizio, nel discorso rivolto alla platea degli elettori, finiscano per infilarsi dei modelli che sono invece tipici della persuasione. Beh, certo, ma la seduzione è l'anima di tutto, insomma, anche del nostro comportamento quotidiano con le persone in generale, no? Quindi funziona. Sì, ognuno di noi fa pubblicità di se stesso, esatto, in fin dei conti, senso. No? Si propone come una merce che deve essere il più possibile appetibile per poter essere acquistata. Allora, speriamo che lo sia Riposo del Guerriero di oggi, ma sicuramente abbiamo cominciato bene. E io volevo così cominciare anche dalla carrellata che tu hai fatto, Francesca, su alcuni spot che nel corso del tempo sono cambiati, anche perché la puntata di oggi è dedicata a quella che sarà la notte dei Publivori a Milano, il 9 e il 10 novembre alle 9:30 al Teatro degli Arcimboldi, poi ne parleremo in modo più dettagliato, dove vengono proiettati spot da tutto il mondo, il meglio e il peggio della pubblicità nel mondo. È un notte dei Publivori, ormai c'è da 20 anni, adesso mi ricordo, sì, che certo. Edizione sia questa, comunque poi ne parleremo in modo più approfondito. Per questo ho voluto così richiacchierare di pubblicità. Da dove partiamo quindi? Cosa ascoltiamo, Francesca? Ma prima ancora che da una traccia audio, io partirei da una battuta a Michele, perché sentendo sì. Coca-Cola non può non aver pensato al piazzamento sul mercato cinese della Coca-Cola. Sì, ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato fuori onda prima, adesso sveliamo i nostri ascoltatori d'arcano. Ve la cito perché è una cosa... Beh, partiamo da prima, cioè da cosa succede. Ah, sì, giusto. Sì, è vero. Nessuno ci ha seguito fuori onda. No, esatto, perché... dobbiamo spiegare. No, si parlava appunto di queste pubblicità... trans territoriali che hanno necessità di dover superare confini, lingue, modi e culture, e appunto proprio con Coca-Cola, che è una delle marche che in assoluto deve comunicare in modo capillare in tutti i paesi del mondo, ha avuto un grave problema. Si parla della Cina, dove Coca-Cola è stato tradotto con degli ideogrammi per poter avere la stessa fonetica con, adesso in radio non posso riprodurli, ma sono una cosa che suonava come che in là, qualcosa che assomigliava un po' a Coca-Cola in maniera. Sì. Solo che purtroppo non è stata verificata questa traduzione, questo ideogramma scritto dopo aver speso miliardi di pubblicità stampate, non so quante centinaia di miliardi di bottigliette lattine. La traduzione del cinese è mordi il girino di cera, oppure con un'altra interpretazione dell'ideogramma, il cavallo femmina riempito di cera. Allora, questo è un problema di verifica di come... Non deve essere molto buona, no. Quella in effetti. Una citazione, no? Meravigliosa. Quindi, hanno tradotto poi sì. Alla fine con un ideogramma che suona con co-co-cole, che significa? Felicità in bocca. Vabbè, anche qua, questo è bello, però. Molto meglio. Molto meglio. C'è stata anche un'altra proposta la cui traduzione dovrebbe essere bevi e sei felice. Ecco. perché chiaramente le regole cinesi, come dicevi, impongono la scrittura dei marchi commerciali in entrambe le lingue. Lì la sfida è nel riuscire a non stravolgere i suoni di partenza nella lingua d'arrivo, cosa che però spesso non si riesce a produrre. Sì, sulla stessa linea, però in questo caso mi sembra una traduzione abbastanza azzeccata. Sono stati molto bravi, sinceramente, era una bella sfida. Una bella sfida. Sì, decisamente. Francesca. Sì. Eccomi, allora, dicevo che sulla stessa linea troviamo ad esempio la traduzione dell'IKEA che nell'ideogramma corrispondente equivale a casa economica, quindi benché non sia naturalmente un qualcosa di riconducibile al marchio svedese, è riuscito comunque nel cogliere, ha colto alcuni elementi che sono invece caratteristiche fondanti del marchio IKEA. Ecco, allora, proprio mi fermo sul marchio, insomma, famoso dei mobili in scatola che si montano, per dire, prima abbiamo iniziato con la globalizzazione della pubblicità, no? Nel caso di IKEA le cose sono un po' cambiate, perché c'è stato il caso IKEA esploso proprio qualche settimana fa, perché negli Emirati Arabi il catalogo ha dovuto subire dei ritocchi, no? Sì. Altro che delle eliminazioni più che dei ritocchi, visto che le immagini di donna non possono comparire. Quindi con Photoshop sono state eliminate tutte le donne da tutte le foto? Per forza, perché sennò il catalogo non avrebbe mai potuto essere messo in no, ma questa è una cosa comune in tutte le comunicazioni pubblicitarie nei paesi arabi, Arabia Saudita, eccetera. Perché non ci aveva pensato, secondo voi, la Svezia? È una leggerezza questa, perché io tempo fa feci una pubblicità per Swatch che andò in tutto il mondo. Sì. E questa sapevamo benissimo che i soggetti con le figure femminili non potevano essere pianificate nei paesi arabi, o coperte in maniera diversa in altri paesi, sì, ancora, o comunque in Arabia Saudita è di legge vietata. C'è un'altra cosa molto divertente, sì, che in Arabia Saudita è vietata la pubblicità sia della presenza di donne, sì, sia di chiaroveggenti, che non so bene come associare queste due cose. E le chiaroveggenti possono essere solo donne? No, oppure anche cos'è la pubblicità uomini? Di chiaroveggenti o in lettori generale, di tarocchi? Però o non della... sarebbe male, ma però non so perché questo si accaniscono. Dovrebbe valere un po' per, non dico tutto il mondo, però insomma, esatto, dipende sempre. Farebbe bene trova anche la nostra televisione. Esatto, allora ci fermiamo per la pubblicità invece, che comunque l'anima del commercio, esatto, in generale. Torniamo a parlare di questo nel riposo del guerriero. Vi ricordo ancora 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Il riposo del guerriero. Intanto stiamo girando per il mondo a caccia di pubblicità per capire anche come la pubblicità cambia nelle varie nazioni. Sì, cambio deve cambiare per, sì, motivi legali. Infatti stiamo guardando come in Malesia i poveri pubblicitari, non per popolazione islamica di grande, sì, maggioranza, per cui sono vietate pubblicità di carne di maiale, okay, bevande alcoliche, sì, sigarette, donne vestite in modo indecoroso, ma soprattutto hanno un limite enorme, forse farebbe bene anche noi, perché tutti gli spot devono essere girati in Malesia. Quindi non puoi uscire, non puoi uscire dai confini, per cui non puoi mostrare altri paesaggi se non quelli in Malesia. Ecco, ci sono delle regole che valgono anche per nazioni molto più vicine alla nostra, la Germania per esempio. Sì, ci sono, in Germania ad esempio abbiamo scoperto, perché io non ho mai scritto per la Germania, che non si possono usare i superlativi. Ecco, quindi una famosa pubblicità che dice purissima, non si può, no, sì, cambierebbe. Siamo completamente molto più pragmatici probabilmente, se è buono è buono, non è buonissimo. Che poi è anche vero, perché poi quando è tutto così, issimo, non, esatto, funziona, no, questo più. Questo è un vero problema che incontriamo noi a scrivere, perché quando è veramente più buono di qualcosa d'altro, non sai come dirlo. Esatto, gli aggettivi sono ormai usati tutti, in tutti i suoi superlativi. Qui ci darà ragione la Dragotto sicuramente. Vai. Quando usiamo troppo issimo, gli issimo non ha più senso, giusto Francesca? Beh, in generale quando abusiamo di una forma la logoriamo, ne riduciamo il significato, la facciamo sbiadire, quindi mi piace dire le parole di plastica, nel senso parole di plastica, di pezzi di materiale che sono difficili da biodegradare, ma che sono anche difficili da sostituire. Il problema è quando poi capita la cosa appunto veramente buona. La Germania preferisce fare un passo indietro rispetto all'iperbole, che invece è onnipervasiva nelle nostre pubblicità, e quindi restare vicina a un certo tipo di modello di comunicazione che è più informativo che seducente. Beh, ti obbliga anche a uno sforzo creativo, no? Interessante. Sì, beh, mi chiedevo prima, sentendo Michele che commentava il catalogo IKEA, se non si tratti invece di una trovata pubblicitaria alla stregua di quelle del CEO di Ryanair, che fa scrivere che sui voli Ryanair sarà obbligatorio pagare per accedere alle toilette oppure per usare la carta igienica. Chissà che anche IKEA non sia vittima di una leggerezza, ma non abbia invece pensato di sfruttare una pubblicità indotta, non predisponendo un catalogo per il mondo arabo, perché insomma una multinazionale così attenta, esatto, al posizionamento sul territorio che si dimentichi del fatto che in un catalogo non possano comparire delle donne, non lo so, perlomeno lancio lì, sì, lo spunto di riflessione. E poi i giornalisti ci cascano, bisogna dire questo alla fine, no? Perché pubblicità così a costo zero, esatto, ribattuta di paese in paese. Allora, cosa facciamo ascoltare, Francesca? Hai preparato tante cose. Le donne, fra l'altro, se non si possono vedere nei paesi arabi, si vedono come in Italia. Ecco. Esatto, si vedono in tanti ruoli, alcuni di questi ruoli si mantengono inossidati a dispetto del tempo che passa, altri tentano di essere riscritti, ma comunque sono protagoniste di gran parte degli spot pubblicitari e inizieremo a vedere qual è la rappresentazione della donna nel caso della pubblicità dei dadi da cucina, quindi i dadi. Se un dado fosse troppo forte, sai di cosa saprebbe il tuo minestrone? Di dado. E il tuo pollo? Saprebbe di dado anche il pollo, no? Dado Knorr è un dado che sa fare il dado, perché arricchisce il sapore dei tuoi piatti senza coprirlo. Allora, Francesca, qua è il dado protagonista della pubblicità. Il dado, insieme alla famiglia italiana degli anni Ottanta e nello specifico della famiglia, insieme ai ruoli, o meglio al ruolo dominante della donna, quale ancilla del focolare. Lo spot, metteremo poi il link sulla vostra pagina Facebook in modo che i curiosi possano andare a recuperare queste perle di pubblicità degli anni Ottanta e anche precedenti. Appunto nell'immagine la donna compare con un atteggiamento sontuoso e regale, portando però in mano alla stregua della servitù il pollo, anzi prima del pollo una zuppiera il cui contenuto non è per l'appunto una zuppa ma un insieme di dadi gelatinosi. Quindi abbiamo il messaggio di fondo che la donna è sempre regina della cucina, sì, della casa e della cucina in particolare, quella che si occupa dell'alimentazione dei figli che sono sempre seduti intorno a un tavolo insieme al marito, figli che sono beneficiati dall'azione della donna ma che sono anche giudici, perché altrimenti non si spiegherebbe il papà guarda un pollo finale. Quello è finalmente. Devo dire che in questa comunicazione che abbiamo appena sentito, tanto onore al merito anche alla parte visuale, dove c'erano tutti gli alimenti cubici. Non so come se fosse un grande dado. Esatto, erano tutti cubici, per cui tutti vedevano praticamente una standardizzazione del cibo. E poi questo bambino, con questa battuta che è diventato un tormentone, guarda mamma un pollo, quando finalmente arriva un pollo con la forma di pollo e non cubo. E il gusto è quello giusto, quindi esatto. Complimenti anche pubblicitari in sì, effetti. Sicuramente. Vediamo se 20 anni dopo le cose sono cambiate, anzi sentiamo o meno. Knorr, innamorarsi in cucina. Donne. Dado Knorr, in ogni occasione, il dado giusto che arricchisce il sapore e la personalità dei tuoi piatti. Knorr, innamorarsi in cucina. Ecco qui, scusa, ho sbagliato i tempi, o giusto, Francesca? Ma quello che importa è che in tutta questa serie di spot le donne non compaiono mai, la qualcosa ci potrebbe far pensare ad un brusco cambiamento di tendenza, cosa che invece non corrisponde al vero, come dimostra la colonna sonora, perché la donna non c'è, ma la sua presenza si avverte, si staglia, quindi rimane impressa nelle nostre menti proprio perché è associata alla ben nota canzone di Zucchero. Quindi da questo punto di vista potremmo anche fare un salto a questo punto a 40 anni prima e potremmo constatare che sostanzialmente ovviamente la rappresentazione della donna, almeno in questo segmento pubblicitario, rimane la stessa. L'unica l'unico elemento di novità lo troviamo proprio in una pubblicità dei nostri giorni, in cui come protagonista c'è uno chef, Marco Pierre White, chef che è stato anche molto criticato per la propria decisione di pubblicizzare dei dadi. E che però appunto si propone di conquistare un mercato nuovo, che è il mercato di chi dubita proprio del dado, nel senso che lo reputa un prodotto non idoneo ad un certo tipo di cucina. Quindi c'è un tentativo di ripiazzamento del prodotto in un segmento diverso di produzione, di fruizione. Però ecco, se andiamo invece agli anni 60, andiamo a sentire un bellissimo carosello del doppio Prodo Star, un carosello che poi appunto sarebbe da vedere, ci possiamo accorgere come sostanzialmente la rappresentazione della donna rimanga immutata per più di 50 anni. Passa la sera a leggere il giornale. Ho nel cuore tanta nostalgia quando penso come la vita mia e com'era alcuni anni fa, quando c'era la felicità. Ritornava ogni sera con te. Per rido, ricordo, sono i jingle cantati. Michele si illumina in poche parole. Vorrei dire che Michele ha scritto tra i jingle più conosciuti delle pubblicità italiane. Ero bambino. Questo ti ha segnato a vita. Esatto. Com'era qui il dado e la donna soprattutto, Francesca? Lo lascerei raccontare volentieri a Michele, perché credo abbia presente lo spot, uno tra l'altro di una serie di spot. Mi ricordo il jingle naturalmente, ma non la parte visiva, no, nel senso che più o meno, no, non me lo ricordo sinceramente com'era tutto lo spot. L'elemento caratterizzante sia in questo sia negli spot successivi, ma della stessa serie, perché Carosello imponeva la non riproducibilità tecnica, cito in maniera subliminale il titolo di un ben noto saggio, quindi Carosello imponeva un ripensamento, una riscrittura, una variazione, si dice, una variazione, una rielaborazione del tema. E l'elemento importante è la donna vestita in abiti da cameriera, potremmo dire oggi da cameriera sexy, per cui la mise nera con il grembiulino orlato bianco, le mancava solo la cristina. Ed è interessante anche l'ambientazione, quindi lo spaccato del tinello, lo spaccato della sala da pranzo con l'uomo tornato da lavoro, che una volta gettata la borsa sì, esattamente, tanto c'è qualcuno che poi te la mette a posto, sì. Esatto, chiaro, esattamente. Si predispone comodamente ad attendere la cena sfogliando il giornale in poltrona. Vedi come siamo comodi, in effetti, è sì, giusto. C'è una cosa da dire, che ricevendo i brief, cioè i materiali che i clienti danno alle agenzie per poter lavorare, un po' è cambiato, nel senso, per fortuna. Infatti molti di questi prodotti che hanno delle commodity, cioè delle comodità che tolgono lavoro alla donna, spesso vengono richieste alle agenzie delle comunicazioni che non debbano calcare troppo questa facilità per evitare di togliere il ruolo di regina della casa, che a livello psicologico sembra sempre essere quello che funzioni. Per cui il surgelato sì, ma non perché impieghi meno e te ne freghi della famiglia, bensì perché puoi dedicare più tempo alla famiglia, certo, o perché è più buono. Ecco, eccetera. Perché voi dovete pensare, gli ascoltatori ovviamente che così non masticano la pubblicità ma la subiscono, che in effetti c'è sempre un brief, ovvero c'è sempre una richiesta da parte di un cliente. Non è che i pubblicitari si svegliano al mattino dicendo inventano adesso pubblicizzo la qualcosa. Ecco, magari fosse così, ma non è così. Pietro Maestri, ciao, buona domenica. Pietro, pronto? Niente, no, è caduto Pietro Maestri, bene, lo recupereremo sicuramente. Allora andiamo avanti. Abbiamo capito che la donna con i dadi in qualche modo c'ha sempre a che fare. C'è sempre a che fare, però stanno cambiando le cose, almeno in questo senso, ecco, meno male. Io lo spero, perché e poi il dado è un prodotto che veramente è una tradizione decennale. Che poi devo dire, tra virgolette, è anche un prodotto secondo me molto maschile, perché è molto comodo, per cui quando non hai tempo di cucinare, comunque lo metti nell'acqua e hai fatto il brodo. Sì, soprattutto il brodo di carne. Ci metti dentro qualcosa e hai già fatto, in realtà. Cioè, no? La guerra ai glutammati, è una storia. Quindi comunque è veramente bipartisan. Francesca? Vecchi stereotipi, nuovi stereotipi, perché non è, da quello che diceva Michele si evince con chiarezza che in realtà almeno per una certa fetta della popolazione il ruolo, per così dire, tradizionale della donna è ben saldo, e quindi i copi, insomma, devono fare i conti tanto con chi si riconosce in questo modello, tanto con chi, non riconoscendoci, si decide di innovare, ma a questo punto andando ad incontrarsi e a scontrarsi con altri stereotipi, quello della donna lavoratrice o peggio della donna in carriera, quello della donna single, quello della donna che convive, che non è sposata, il che apre il fianco a tutta una nuova serie di interpretazioni della moderna famiglia. Scusami, faccio una domanda a entrambi a questo punto, poi recuperiamo Pietro Maestri. La domanda è questa: la donna in tanti ruoli diversi, ok? Ne abbiamo citato qualcuno. Parecchi, sì. Parecchi ruoli. L'uomo quanti ruoli ha invece? Bella lascio lascio la parola poi. Cioè, mi sembrano molti meno, cioè c'è l'uomo manager, effetti, e l'uomo papà, non esistono altri ruoli secondo me in pubblicità. Sì. Poi ci sono i supereroi, cioè quelli sportivi, muscolosi, che però è un mondo a parte. Cioè quelli degli articoli sportivi. Sono tre fondamentalmente le categorie. Però c'è anche l'introduzione di un altro modello di uomo, l'uomo giovane, papà, attento alla cura dei figli, che sa anche proporre, il caso della pubblicità, di alcuni cereali, anzi di alcune palline al miele, ha anche il coraggio di proporre colazioni innovative rispetto a quelle della mamma, che per definizione non dovrebbero essere messe in discussione. Ecco, quindi perché abbiamo anche la guerra colazione papà e colazione mamma. Siamo riusciti a fare anche questo. I pubblicitari sono veramente un popolo di cattivi. Ecco, cioè. È un popolo che ha ben chiaro il risultato che deve ottenere, e quanti più segmenti di popolazione riesce a far identificare nel messaggio, nel proprio messaggio, tanto più può risultare vincente nel momento in cui il fruitore della pubblicità si ritroverà al supermercato e memore della pubblicità stessa acquisterà un certo prodotto. Un discorso a parte, infatti, dovremo fare e faremo sulla figura del testimonial. Penso alla recentissima campagna del Mulino Bianco con testimonial Banderas, un Banderas che al di là della propria presenza non apporta nulla di originale o di particolarmente accattivante al testo, se non che degli studi recenti dimostrano che c'è un maggiore abbassamento della soglia di attenzione di chi guarda uno spot pubblicitario quando in quello spot compare un personaggio famoso, cosa che predispone maggiormente all'acquisto del prodotto sponsorizzato. Quindi c'è un'operazione che punta più che fa più leva sul cervello che non su ragioni estetiche o funzionali. In pubblicità non è già stato detto tutto, c'è ancora molto da dire. Gli aggiornamenti sul traffico, poi torniamo. Il riposo del guerriero. Io lo so che quando faccio una puntata dedicata al mondo della pubblicità dovrei fare 6 ore di programma, non 1 ora e mezza, perché le cose che arrivano sono sempre veramente tante. Allora, mi scuso con Pietro Maestri, tra poco lo sentiremo appena ci riusciamo, perché continuano a inserirsi cose. Vi spiego subito la prima. Un messaggio: sono l'autrice dello spot del Dado Pollo, al quale abbiamo fatto molti complimenti, tra l'altro. Peccato non abbiate colto l'autoironia della donna. Francesca. L'autoironia della donna dipende, è una delle letture, dovremmo vedere qui. Allora, come per tutti quanti i testi, si attivano delle interpretazioni alternative. Non escludo che la copy abbia avuto una chiave autoironica nell'immaginare, nel disegnare quella donna, però alla gran parte delle donne arrivava invece l'atteggiamento autorevole della donna che con fierezza portava i propri prodotti sulla tavola. Quindi ringrazio per la segnalazione, che va ad aggiungere e non a togliere, che ci dà l'idea di quanto complesso sia produrre un testo efficace. Questo vale per qualunque tipo di testo, ma nel caso del testo pubblicitario, che ha come obiettivo quello di far acquistare un prodotto o un servizio, vale a maggior ragione. Quindi ottimo e funzionale anche a tutto il nostro discorso, perché poi uno dei successi di una pubblicità potrebbe proprio nascere dal fatto che categorie in partenza estranee, quindi in partenza non obiettivo di una certa campagna, lo diventano involontariamente a causa di un'interpretazione, anzi grazie a un'interpretazione diversa rispetto a quella che era stata pianificata. Ecco. Quindi i momenti, e tra l'altro, esatto, chiavi di lettura, anche tre o quattro, i momenti non, come l'arte, è la stessa cosa. In momenti non sospetti, tra l'altro, un ascoltatore ha scritto: ma mi spiegate cosa ci fa Banderas che parla con una gallina? E infatti abbiamo citato anche, esatto, quello spot. Pietro Maestri, finalmente, ciao, scusa, ci abbiamo fatto aspettare, ecco, al telefono. Figuratevi. Ma chiacchieriamo di pubblicità, che è la tua anima anche, e parliamo soprattutto parliamo della notte dei Publivori a Milano, l'edizione nuova 9-10 novembre, 9:30, e voglio anche regalare l'ingresso per due persone a chi manda un messaggio adesso con scritto Publivori e la propria email, 349-238-6666 al primo messaggio che arriva. Pietro, parlaci della notte dei Publivori. Beh, la notte dei Publivori è un'iniziativa fantastica che viene portata in Italia da anni ormai, da Riccardo Cione, la Bucci e il suo team, e secondo me è fantastico perché, per l'appunto, alla gente non smaliziata, cioè quelli non malati di pubblicità o che ci lavorano, dà l'occasione di avere davanti agli occhi una panoramica impressionante di prodotti creativi provenienti da mille paesi. Secondo me è un'occasione anche molto bella per vedere come la cultura di comunicazione sia diversa a seconda delle latitudini e longitudini. Poi certo ci sono temi comuni, purtroppo spesso e volentieri il ruolo della donna è quello, il ruolo dell'uomo figo è quello, eccetera. Però viene anche spesso e volentieri rivisitato in modo molto divertente. Ad esempio all'estero c'è un uso dello humor molto migliore di quello che c'è in Italia. Noi possiamo essere un paese spiritoso. Purtroppo in pubblicità noi facciamo i simpatici, che è una roba che non è lo humor. Cioè facciamo quello carino col papà gentile che fa la battutina, bim bam bam, ma non c'è lo humor, che è intelligenza. Mentre la simpatia non è intelligenza, è essere, scusate il termine, un po' più paraculi. Ecco, senti, ma questo è colpa di... Tutte queste graziose cose, sì, vengono fuori guardando gli spot della notte dei Publivori. Ecco, ma non dipende anche dalla nazione dove si, comunque nel senso, cioè non dal copywriter che non sa essere ironico ma che non può essere per una serie di ragioni. Assolutamente vero, io sono stato mille volte al Festival di Cannes, in giuria più di una volta, e vedi proprio c'è un ranking come se fosse quello dei tennisti o delle nazionali di calcio. Perché sono più ficcanti le strategie, prima di tutto. Meno banali le rappresentazioni, lo humor è più accentuato, c'è anche più coraggio nel mostrare delle situazioni magari un pochino meno simpaticoidi, per l'appunto, ma sono campagne che mirano all'efficacia, cioè non è che i clienti inglesi o francesi o argentini fanno la pubblicità tanto per intrattenere la gente, la fanno per vendere i prodotti. Lì però evidentemente c'è un successo di pubblico, e quindi poi al supermercato oppure quando devi stipulare una polizza assicurativa, dettato dal fatto che come consumatore non sei trattato un po' come stupidino. Vedi, e qui spezzo le mie solite lance, in Italia l'uso, abuso, strabuso di testimonial per qualsiasi cosa. Cioè, ci sono personaggi famosi che fanno 8 campagne contemporaneamente. Sì. Poi le solite ghighettine, poi gnocca, profusione, adesso per fortuna sembrerebbe essere un po' passata sta roba, fino a poco tempo fa se non c'era una con le chiappe di fuori e un cellulare in mano non si vendevano gli abbonamenti. Oddio, qualcuno si è sentito male, eh? Non c'è una nuda con un cellulare. Pietro, ti faccio una domanda, anche perché tu sei tra i fondatori del Art Director Club italiano. Allora, io quando ho cominciato, credo 25 anni fa, sotto la guida di Marco Mignani a fare copywriter, insomma, l'obbligo era quello di, lo ricordo sempre con molto affetto, ho imparato veramente molto da lui, e dicevo, l'obbligo un po' per noi pischelli junior era quello di guardare molto la pubblicità anglosassone, soprattutto per imparare a scrivere e a comunicare. Sono passati veramente tanti anni. Gli italiani hanno imparato a scrivere così o mica tanto? No. In generale? No. Ecco. No. Non hanno imparato, perché io uso sempre la metafora sportiva. È come un giocatore di hockey bravo che nasce in Ghana. Sei fottuto. Che ti manca il ghiaccio, ti manca quello bravo che ti spiega, e devi poi diventare un maratoneta, qualsiasi altra cosa. e noi non abbiamo la palestra quotidiana che ci aiuta a diventare bravi o più bravi. Ecco, malgrado, però, malgrado i direttori creativi, tu tra l'altro lo sei stato, cioè ci impongano invece proprio questo, cioè l'educazione non basta, dice non Michele basta, Tosi. Non, ecco. Basta. Non basta, perché poi è come essere molto virtuosi in allenamento, cioè dentro l'agenzia, esatto. Se vuoi. Poi parli con il cliente, sociologo. Allora, istituto di ricerca. E tutto torna alla normalità. Io potrei scrivere un libro, non lo farò perché è un po' troppo banale per il pubblicitario, su tutte le cose che ho sentito dire, ma una la posso citare, guarda. Sì. Una mia vecchia campagna, Do Gustis Make One del Maxi Bono. Sì. Il cliente dice perfetto, la facciamo, e il sociologo dice no, mai, siete pazzi, mettete in mostra un perdente, un ragazzo che non sa parlare inglese, già è un problema per i ragazzi, se poi noi glielo mettiamo, come dire, in mostra, e questo gelato non lo comprerà mai più nessuno, è il gelato dello sfigato che non cucca perché non parla inglese. Il cliente, Dio lo benedica milioni di volte, disse interessante, mi ci faccio un bidet con questa cosa, fece fare la campagna e Maxi Bon triplicò le vendite. Beh sì, ma non solo, poi è diventato un modo di dire anche adesso, al di là del prodotto. Sì, il primo anno ha battuto addirittura Cornetto Agita, che investiva di più. Beh, effetto collaterale, abbiamo lanciato il mio amico Stefano Accorsi, ma questo è un bene che è andato per lui, ma all'inizio era anche per il gelato. E quindi avete capito, c'è... per una cosa che anche suona di buon senso, cioè, certo, se io ho il complesso di non saper parlare inglese e mostro uno non sa parlare inglese, è un po' sfigato e c'ha il gelato, forse quel gelato non mi piace. Sbagliato, perché è lo humor, perché è la rappresentazione di una realtà che se ti piace, ti fa divertire, ti riverbera simpatia su quel prodotto. Ecco, tra l'altro, a quanto pare noi come pubblico siamo molto più autoironici, ecco, di quanto invece si voglia pensare, quindi sappiamo ridere di noi stessi, e questa poi è la forza anche nella pubblicità. Così ti ringrazio, Pietro Maestri, ci vediamo alla notte dei publivori, grazie. Sicuramente, buona, un abbraccio, ciao. Buona domenica, ciao. Ve lo ricordo, il 9-10 novembre alle 21.30, prima del GR, vi ricordo, abbiamo già assegnato due biglietti, lo facciamo ancora, chi manda da adesso un SMS con scritto Publivori e l'indirizzo email al 349-238-6666 avrà due biglietti per la notte dei Publivori a scelta fra il 9 e il 10 novembre. Il riposo del guerriero. Alle 11:06 continua il riposo del guerriero su Radio 24. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Parliamo di pubblicità oggi, ogni tanto lo facciamo, ma mi raccontava Michele che ci sono addirittura dei quotidiani inglesi che hanno una rubrica fissa sulla pubblicità settimanalmente. Sì, sì, perché fa parte della cultura, cioè come si parla di sport, politica, in piccolo, in piccoli spazi, sui quotidiani inglesi c'è una rubrica fissa sulla E comunque lo è pubblicità. Perché ci coinvolge quotidianamente, per cui sarebbe stupido è invasiva. Far finta di niente. È invasiva la pubblicità. Francesca Dragotto, la nostra glottologa, eccoci qua, perché tu hai cuore per una pubblicità che ti ha colpita in modo particolare. Per molte, però ora non so nello specifico a quale tu ti stia riferendo. Alle onoranze funebri. Ah beh sì, allora parliamo più che di una pubblicità, parliamo proprio di una campagna che sta del tutto rivoluzionando il modo di fare pubblicità dei funerali, pubblicità sui funerali. E questo segmento di comunicazione mi interessa particolarmente non solo perché è poco trattato dai testi che usualmente si occupano di pubblicità, ma perché secondo me va letta come una virata piuttosto forte, una virata comunicativa, un modo diverso di parlare di argomenti finora considerati tabù. Già di per sé l'idea di fare pubblicità a un funerale ha fatto e farà gridare allo scandalo tantissime persone, però la conoscenza di una serie di fatti, tra poco ne spiegherò qualcuno, ha fatto sì che recentemente una ditta di pompe funebri, di onoranze funebri, la TAFFO, abbia avuto il coraggio, assistita da una buona agenzia di comunicazione, abbia avuto il coraggio di sdoganare determinate rappresentazioni. Mi riferisco alla rappresentazione di uno spaccato di salotto con una mensola, con sopra un'urna color oro, con accanto un orologio e una pianta. Mi riferisco alla campagna per affissione relativa alla promozione della cremazione certificata. Le immagini direbbero molto più di tante parole, cercherò di raccontarvela brevemente. Perché? Perché quello che mi interessa mettere in evidenza è che secondo me va additata proprio come una nuova forma, un'inversione di tendenza, e qui non mi riferisco a quell'invertising a cui mi veniva da pensare nel corso dell'ultimo intervento della prima parte, perché dovremmo anche chiederci, guardando le diverse componenti della società, in che modo i giovani reagiscono, quindi le nuovissime generazioni reagiscano a determinati stereotipi. Pensavo a quello della donna, ma penso anche al modello Saratoga, che è stato il primo negli anni '80 poi a sdoganare invece un altro tipo di rappresentazione, ovvero la donna fatta a pezzi, la donna che compare nuda per pubblicizzare qualunque tipo di prodotto. Qui penso a un advertising, un prodotto molto maschile, senso. Scusa, fra l'altro, sì, perché come nuova tendenza, come evoluzione dell'advertising, quindi come evoluzione della pubblicità. Allora, la TAFFO che cosa fa? La TAFFO, che già ha piazzato sul mercato varie pubblicità, sia per i propri servizi funebri in generale, sia per la cremazione certificata, decide appunto di osare intraprendere una nuova inusitata strada, che si riesce a capire, a comprendere pienamente soltanto avendo in mente gli scandali che a Roma e altrove, penso ai casi della Toscana come al caso di Mirteto, hanno segnato la crescente diffusione della pratica della cremazione. La cremazione è in aumento in Italia, ogni anno la scelgono in 85.000, e anche perché grazie a una legge approvata qualche anno fa questa forma di sepoltura è adesso possibile con minori vincoli, soprattutto poi a minori costi, e consente di riuscire a venire incontro a quelle che erano le volontà del caro estinto. Se non che appunto in città dove i cimiteri esplodono e dove quindi la cremazione potrebbe risultare utile anche da quel punto di vista, cominciamo a leggere sul giornale di Cimiteropoli, quindi un ennesimo neologismo inopoli, di Cimiteropoli, ovvero bare accatastate e parenti a cui il luogo delle ceneri dei propri cari, dei congiunti, sono state consegnate urne con dentro sabbia, terra, pietre. Ah, ecco, quindi tutto, insomma, c'è stato questo scandalo che quindi ha imposto in qualche modo questa società a fare una pubblicità che proponesse in un modo completamente diverso il proprio operato, quindi mettendolo insieme ai soprammobili di casa, cioè dicendo: sei sicuro di avere davvero, esatto, cioè la domanda è: non hai attento a non avere un estraneo in casa, la questione dentro l'urna c'è veramente quello che pensi, sì, e non qualcos'altro. Sì. Ecco, poi si sono spostati loro, nel senso che hanno cercato di fare delle campagne sociali legate però sempre a un tema difficile. La morte. Esatto. Esatto. Michele, infatti, è un tema complicato. Adesso non è un bel prodotto, nel senso che no, è difficile da comunicare perché non è da vendere. Sì. Io non ho mai avuto occasione, purtroppo, però mi piacerebbe cimentare. Che sarebbe una sfida interessante. Sì, perché comunque è difficile la comunicazione su questi argomenti. Loro l'hanno dribblata, tra virgolette, con l'ironia, con grande acume, secondo me, perché al di là di risolvere il problema di comunicazione della cremazione certificata, come ha citato prima, sì, anche questa nuova, con delle affissioni sulla sicurezza stradale, eccetera. Per esempio, loro dicono: se hai bevuto, fai guidare qualcun altro o saremo noi a darti un passaggio. E chiaramente, esatto, uno non lo vorrebbe. Sì, che uno si fa anche una risata, ironico, sì, però fa pensare a lungo. Perché prende due piccioni con una fava, esatto, come si suol dire. C'è ad esempio un cuscino, ovviamente il cuscino è particolare, e la scritta, il titolo è: se hai sonno, fermati subito, meglio riposare in auto che da noi, ovviamente, ecco perché sennò gli incidenti possono essere gravi. Perché piangere due volte invece quando si parla di prezzo? Esatto, è molto perché carino. Siamo in epoca di crisi, perché si va verso il funerale low cost, termine che è stato introdotto da un'agenzia funebre milanese alcuni anni fa, e perché non solo siamo di fronte al funerale low low cost, ma siamo di fronte alla sua rateizzazione, quindi chissà se un giorno spunterà qualche agenzia pubblicitaria che avrà il coraggio di usare il regalo, quindi di proporre il regalo del funerale come magari pagato a rate, come nuova forma originale di regalo natalizio. Ecco, è difficile perché si tocca un argomento complesso in questo senso, anche perché quando parli della morte appunto è molto difficile. Sì, sì. Allora intanto volevo ricordare che ancora da questo momento chi manda il primo che manda un sms al 349-238-6666 con Publivori e il proprio indirizzo email ha i biglietti, due biglietti per la notte dei Publivori a Milano. Giovanna Zaganelli, buona domenica Giovanna. Buongiorno, grazie. Docente all'Università di Perugia, curatrice di un libro intitolato Scrittori e pubblicità, edito da Lupetti, perché anche scrittori famosi hanno scritto pubblicità. Esattamente, sì, sì. Questo libro infatti si occupa proprio dei rapporti tra letteratura e pubblicità, nel senso che si studiano i contributi concreti di questa collaborazione, quindi forse da questo punto di vista il libro è anche un po' nuovo, non mostra solo la posizione della critica letteraria nei confronti della pubblicità. Direi, se posso, insomma, mi sembra più in profondità il libro studi da un lato lo sviluppo della pubblicità da messaggio pubblicitario e quindi da messaggio intanto occasionale a volte così a invece diciamo sistema, e poi ancora da messaggio di tipo semplicemente persuasivo che invece diventa testo con delle potenzialità diciamo retoriche, linguistiche, narrative davvero infinite, soprattutto potenzialità che vedono collaborare sistemi anche segnici differenti, per esempio quelli linguistici, quelli iconici, quelli musicali eccetera. Quindi da questo punto di vista mi sembra uno sviluppo dell'idea della pubblicità da messaggio soprattutto a testo. Ecco, Giovanna, si tratta di autori consapevoli e inconsapevoli, cioè quindi autori, poi magari ci fai qualche esempio, consapevoli di aver scritto pubblicità o inconsapevoli di averlo fatto? Ma perché qui parliamo soprattutto nella seconda parte probabilmente di quelle che sono le modalità attraverso cui la letteratura è entrata nella pubblicità, e quindi consapevoli nel senso che scrittori copywriter, scrittori che hanno prestato la loro penna e quindi il loro genio al testo pubblicitario e ne sono venuti fuori per esempio, ma cominciamo da subito, dalla fine dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, fino ai nostri giorni, ricordo insomma questa parte molto interessante di cui il libro si occupa, ma per esempio di Trilussa che ha scritto le favole per molte delle aziende come per esempio Saiva, come la Rinascente, questa è D'Annunzio, ma per esempio Bacco e l'acqua per Fiuggi, la pasticca del Re Sole, sempre tornando a Trilussa, quindi qui c'è un lavoro consapevolmente costruito, sì, per entrare in ambito pubblicitario. Qui potremmo fare veramente moltissimi esempi, nel libro ne abbiamo delle testimonianze concrete perché l'ultima parte è proprio una sezione antologica, quindi il lettore può tranquillamente prendere visione di queste modalità attraverso cui il letterato ha consapevolmente contribuito. Ecco, c'è invece una parte di inconsapevolezza, quindi quando un copywriter prende in prestito una frase prende famosa. Prende in prestito, diciamo, delle altre forme, delle altre citazioni. Qui prende in prestito nel senso che magari diciamo aspetti letterari vengono come dire tratti e poi portati direttamente in ambito pubblicitario, la citazione, questo è il punto che riguarda sostanzialmente la citazione, quindi certo. L'elemento può essere inserito ed è riconoscibile quindi in ambito pubblicitario, oppure l'elemento è inserito ma non risulta riconoscibile perché diciamo che è una lettura che magari certo, è una scelta che pochi. Ha fatto esatto il copywriter e poi insomma va alle persone senza, che è una scelta senza... nascosta, per esempio nella penna Waterman abbiamo diciamo la struttura della penna Waterman Apollinaire, ma insomma non molti lo sanno, sanno lì qual è l'obiettivo, ma è quello di sfruttare le capacità di altri, certo, per di, insomma di poi altri anche per... Alfa Romeo recentemente ha preso una frase di Shakespeare, appunto rivisitata per pubblicizzare poi l'automobile. Giovanna Zaganelli, io ti saluto, ti ringrazio, vi ricordo il libro Scrittori e Pubblicità, edito da Lupetti. Buona domenica Giovanna. Grazie, buona domenica. Grazie, grazie. Subito gli aggiornamenti sul traffico, poi torniamo. Il riposo del guerriero. Ecco l'ironia degli ascoltatori che arriva, Michele, perché Ornella scrive: visto l'argomento, al posto dei biglietti per i publivori pensavo voleste regalare un'urna vuota, sai, pensando al futuro. Sempre promozione. Sempre promozione. Francesca. Sì, sì. Allora, abbiamo qualche minuto ancora per chiudere, ti lasciamo scegliere l'ultimo argomento. Beh, è un compito gravoso. Lancio degli spunti, scegliete voi. Prima abbiamo parlato della donna che prende il marito per la gola. Recentemente, 2010, un deodorante per ambienti fa prendere alla moglie il marito per il naso. Oppure, ma sì, forse andiamo su questo, la rappresentazione della donna negli spot di scarpe. Sì. E vogliamo sentirli, quindi dobbiamo... Beh sì, okay. Ne sentirei sicuramente un paio, forse anche tre, per far vedere come le pubblicità di scarpe, determinate pubblicità di scarpe, segnino veramente un cambiamento dei tempi. Allora, siccome in questo momento noi non lo troviamo e quindi non... Sì, l'abbiamo trovato, eccolo qua, scusa. Vi prego, non lasciate mai, mai che la vostra ragazza, pure vostra moglie, scoprano Zalando.it. Questo negozio di scarpe online mi ha rovinato la vita. Scarpe, scarpe di tutte le marche, senza, ecco, quindi, alcun rischio, perché spedizione reso, sono sempre cosa gratuiti. Sta succedendo, Francesca? Succede che una coppia giovane coppia appunto di persone che vivono insieme si trova ad essere invasa dai tanti modelli di scarpe che la lei di turno acquista da un sito, appunto Zalando, un sito che offre un servizio di reso gratuito e che quindi consente di trovare comodamente a casa le scarpe e di restituirle senza impegno nel caso in cui non dovessero piacere, soddisfacenti. Sì, certo. Esatto. La parte più interessante è quella che non abbiamo sentito, perché però la racconto, perché di fronte alla porta che suona, di fronte al campanello che suona, lui si ritrova, quindi il ragazzo, il fidanzato, il compagno, c'è un problema terminologico nel definire il non marito, e lì non è marito perché non ha la fede, si ritrova di fronte un postino, guardando un corriere che consegna altre scatole di scarpe. Vedendo il corriere inizia ad urlare, nel frattempo arriva lei che a sua volta urla, ma con un urlo di piacere. Sentendo i due che urlano, il corriere urla a sua volta pensando di essere finito in un covo di pazzi. Il motivo per cui trovo questa pubblicità interessante è perché nell'immaginario collettivo si sta sempre più prefigurando un rapporto morboso tra donna e scarpa, un rapporto che forse negli ultimi anni invece sta riguardando anche tanti uomini, un rapporto che però non appartiene, o meglio non apparteneva alla nostra cultura, ma che si è lentamente acclimatato anche grazie a operazioni di diffusione di programmi quali Sex and the City, quindi penso a Carrie Bradshaw, la protagonista, una delle protagoniste di Sex and the City, nella cui casa addirittura una stanza era riservata alle scarpe. Proprio questa rappresentazione non più della cabina in armadio, ma della stanza per l'armadio delle scarpe, è protagonista di una bellissima campagna di Heineken, non tradotta in italiano, in inglese, ma che possiamo sentire perché le parole non sono importanti, il filo narrativo si riesce a seguire anche senza conoscere la lingua. Sarebbe bello mandarla. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Ah ja. Met allora, due urli, sì, devo spiegarlo. Quindi anche qui ci sono i due urli, quello delle donne che avranno visto le scarpe, immagino, con gli uomini le birre, o è viceversa? Esatto, le donne che entrano nella stanza delle scarpe e che vengono sovrastate dagli urli degli uomini che entrano nella stanza delle birre. Quindi vecchi modelli, nuovi modelli, contaminazione di modelli, sicuramente un prodotto ben riuscito, come spesso accade per le birre. E tornando al tema della morte, non perché ci voglia tornare sopra, ma visto che abbiamo parlato di di birre, non posso non pensare a un bellissimo spot per la birra IPA, una birra, credo di averlo segnalato, magari sto sconvolgendo adesso la storia. Sì, perché non lo troviamo, che... sì, ce lo racconti. No, sì. Abbiamo trovato, eccolo qua, scusami. Oh. Ah! Spieghiamo cosa succede, ovviamente. Sì, motociclista che inavvertitamente finisce fuori... ciclista e basta, che inavvertitamente finisce fuori strada, quindi lo si dà per spacciato e invece si rialza, mentre si rialza passa un tir che lo mette sotto, quindi insomma cosa c'è di peggio di essere calpestati da un tir? Ecco, in Italia una pubblicità così non potremmo vederla mai. No, però è talmente autoironica, è talmente ben fatta che la si potrebbe mandare tranquillamente, anche perché il tutto culmina con... l'immortalità legata al fatto che la morte nell'iconografia classica, insomma, le manca soltanto la falce, o forse addirittura ce l'ha in questo momento, non ricordo, però insomma nell'iconografia classica è seduta al bar intenta a sorseggiare una birra. È distratta, quindi è un modo veramente leggero di trattare la morte, non vuole essere... Ma in questo caso funziona, perché appunto è sempre difficile poi trattare l'argomento quando parli appunto della morte in generale, c'è sempre qualche problema. I clienti soprattutto sono sempre tesi su questo. Allora, intanto voglio ricordarvi che sulla nostra pagina di Facebook potete trovare tra poco i link alle varie pubblicità delle quali abbiamo parlato, così potete anche vederle, guardarvele e capire insomma anche un po' meglio quello che abbiamo raccontato. E ci sarebbe ancora molto da dire, ma il tempo, ahimè, come sempre tiranno, ma tanto ogni tanto a spot appunto le facciamo le puntate sulla pubblicità. Francesca, noi ti ringraziamo, grazie. Sono io che ringrazio voi, metterò tutti i materiali, soprattutto quelli che non sono riuscita a citare nel post del giorno di tuttopoli.com, anzi vi ringrazio per le tante visite che ogni settimana decidete di dedicare al mio blog. Vi saluto e buona pubblicità a tutti, come si direbbe con uno slogan. grazie Francesca. Allora, Michele, a quanto pare voi ci imponete, anche le scarpe sono diventate appunto un must, qualcosa che bisogna assolutamente avere, in effetti fino a qualche anno fa e esisteva questo piacere, però non era così raccontato. Non era diventato uno stereotipo da utilizzare in pubblicità, invece man mano che si diffonde si possono usare anche queste nuove metafore, diciamo. Ecco, la domanda l'abbiamo già fatta anche altre volte, la potremmo fare all'infinito, è come se siano i pubblicitari a dettare delle mode o se in realtà i pubblicitari seguono semplicemente le mode, forse è più vera questa seconda. Facendo una risposta seria, a livello culturale la pubblicità segue la cultura e gli standard e come si svolge la vita. La pubblicità inserisce dei tormentoni che entrano un po' nel linguaggio ma non cambiano la vita radicalmente. Questo è il mio punto di vista almeno, quindi piacerebbe pubblicitare cambiare la vita, ma saremmo coperti d'oro e dai clienti che ci utilizzano per poter cambiare gli atteggiamenti nei confronti dei prodotti. Ecco, poi la prossima puntata invece che dedicheremo al mondo della pubblicità sicuramente la vorrei dedicare proprio alle nuove generazioni, il come le nuove generazioni invece la leggono, per cui che cosa funziona, cosa non funziona. Okay. Forse vecchie pubblicità che funzionavano per chi ha oggi 40, 50 e più anni non funzionano più per chi invece ne ha 17, 15, 18. Noi consideriamo uno dei target più difficili da raggiungere, quello degli adolescenti e dei perché sono teenager. Cambiati i linguaggi. Sì, e perché rifiutano la pubblicità. Ecco, proprio per questo. Quindi che cosa, esatto. Che cosa sfruttare per comunicare con loro. Esatto, devo dire sfruttare purtroppo, perché questo quello è il termine che devo usare anche se non mi piace. Grazie Michele Tosi. Grazie a voi, buona la prossima domenica. Volta. Grazie anche al tuo socio Piero Campanini che non si fa mai sentire, ma prima o poi perché fa l'art. Riusciremo, sì, fa anche far tante cose. E adesso è il momento invece di videogiocare. Video game. Allora, per quanto riguarda i videogiochi, oggi parliamo del secondo appuntamento con Games Week, dal 9 all'11 novembre, siamo a Milano. Talita Malagò, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica a te. Allora, siamo a Milano, che cosa cambia rispetto all'edizione dell'anno scorso, che ha avuto un grande successo, forse anche un po' inaspettato? Allora, quest'anno non vediamo l'ora di alzare il sipario su Games Week perché abbiamo tante novità per i nostri visitatori. Games Week, in una parola, si fa in sei. Abbiamo sei aree tematiche diverse che abbiamo costruito per rendere questo viaggio all'interno del mondo dei videogiochi il più entusiasmante e coinvolgente possibile. Innanzitutto partiamo dall'area espositiva Games Week Expo. Quest'anno sarà di circa 9.000 metri quadrati, ci sono circa 20 stand che ospitano i principali protagonisti dell'industria videoludica. Sarà possibile provare circa 90 prodotti, di cui 30 anteprime. In anteprima anche la console domestica Nintendo Wii U. All'interno dell'area espositiva abbiamo poi Games Week Kids, che sarà un'area specificamente dedicata ai più piccoli, ai bambini dai 6 ai 10 anni, dove abbiamo allestito un'area dedicata a loro, con postazioni di gioco ma anche con attività come il disegno, la scuola di calcio, il trucco e tante altre ancora. Abbiamo poi Games Week Arena, una vera e propria arena competitiva che ospiterà i tornei di videogiochi sia per videogiocatori professionisti sia che per chi desidera mettersi in gioco all'ultimo minuto. Ci sono 45 sfide al cardiopalma per voi, con 2.000 posti disponibili. Abbiamo poi un'area dedicata alla cultura dei videogiochi, Games Week Culture, e Games Week Conference, un'area dedicata alle conferenze dove si svolgerà, tra le altre cose, anche il primo summit degli sviluppatori italiani di videogiochi. Alla fine, ma non per ultimo, Games Week Show, un palco centrale spettacolare che ospiterà un ricco palinsesto di eventi con il coinvolgimento di molti talent e di molte celebrities. Giusto per darvi un'idea, ci sono anche sei eventi musicali organizzati da GameStop, il nostro partner retail, che vedranno protagonisti Elsie, Cerebro, Mondo Marcio, Ethnix, Finlay, Power Frenzels e gemelli diversi. Ecco, quindi insomma tutto questo per dei giorni dedicati alla cultura del videogioco, che ormai, come la pubblicità, insomma, fa parte della nostra vita, non c'è niente da fare, insomma, anche se molti non videogiocano, un po' bisogna imparare a farlo, è un po' come usare il computer, anche se qualcuno ancora si rifiuta di farlo, invece un po' bisogna imparare. Se siete genitori sicuramente, se siete i più giovani, ma mai i videogiochi sono trasversali, li giocano tutti, non ci sono più età. Però ecco, voglio ricordare anche questo spazio dedicato ai bambini, perché basta, ormai l'abbiamo fatto per troppi anni, demonizzare il videogioco, e invece sicuramente è uno spunto creativo e anche educativo molto spesso, no Talita? Quindi la dimostrazione è quello che si vedrà. Assolutamente sì. Allora vi ricordo, dal 9 all'11 novembre c'è il sito gamesweek.it per avere tutte le informazioni, eventualmente anche prendere i biglietti d'ingresso. Grazie Talita, ci vediamo al Games Week la settimana prossima. Allora, settimana prossima. Ci sono le previsioni del tempo e poi il nostro Davide Paolini e poi ancora Miro in 24 minuti. Game over. Il riposo del guerriero. 11:35, momento del nostro gastronauta, prima di Miro in 24 minuti. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti, nonostante l'acqua che piove ovunque. E a noi invece piace il vino in generale, ce ne so. Sì. No, va bene anche l'acqua, però ecco, durante magari un pranzo o una cena come si deve. Allora, di cosa parliamo oggi? Ma ho sentito che il tema è la pubblicità, sì. No? Mi viene in mente che forse i migliori espressioni pubblicitarie sono i detti popolari, e stamattina, vedendo l'acqua mentre sentivo voi parlare di pubblicità, mi veniva in mente piove, governo, ladro. E quindi credo che sicuramente siano i detti popolari quelli molto più efficaci. No, la pubblicità è il cibo. Ho sentito parlare di dadi, ho sentito parlare di alimentari in particolare. Sì. Io credo che ad esempio sul vino la pubblicità non abbia mai funzionato. Non ricordo grandi investimenti nel vino, soprattutto perché diciamo che i produttori di vino non hanno budget come le aziende alimentari o altri tipi di aziende, di bibite oppure altri tipi di cibo, quindi questa sicuramente è un modo che rallenta e non porta il vino a investire in pubblicità. Ma io sono abbastanza convinto che prodotti di qualità, di alta gamma, come possono essere molti vini, con la pubblicità non ci azzeccano, come dice un noto. Ecco, è anche vero che le quantità che si possono produrre non reggerebbero poi la richiesta. Comunque sia, non si parla di quantità così grandi, tant'è vero che forse l'unica pubblicità di vino che mi possa venire in mente è quella di un vino da tavola, no? Quello che troviamo nei supermercati. Certo, ecco. Certo, sì, sì, quella pubblicità lì che ha avuto tra l'altro grossi problemi, tant'è vero che chi se lo ricorda è uscito uno spot che ha avuto grande effetto secondo me sul pubblico, purtroppo, che dava l'Università di Bologna che garantiva quel vino. E ci sono state polemiche contro polemiche, poi diciamo che quella pubblicità è stata ritirata. E perché quel vino lì ha avuto grande successo? Perché è un vino di largo consumo, non ci sono altri vini di largo consumo oltre quello, e quindi probabilmente è stata la motivazione per cui quel vino investe e ha avuto anche problemi appunto di quel tipo di pubblicità. Ma c'è un altro caso secondo me clamoroso. Sì. Di una pubblicità di un tonno che dice il contrario di quello che è il tonno, però la gente ha bevuto quella pubblicità lì e pensa che mettendo il grissino dentro si debba spezzare il tonno, in realtà si dovrebbe spezzare il grissino. Insomma, ecco, questo credo che sia il caso più clamoroso di pubblicità non veritiera. Ecco, proprio per quanto riguarda gli alcolici, ne approfitto per un semplice fatto che sono arrivati diversi messaggi di ascoltatori che chiedono di parlare delle pubblicità di alcolici. Non lo faccio con te, Davide, adesso, ma ne approfitto però per dire che nella prossima puntata, non di domenica prossima, nella prossima che dedicheremo al mondo della pubblicità, come dicevo prima con Michele Tosi, parleremo della pubblicità verso i giovani e affronteremo proprio anche questo, soprattutto il mondo delle birre, che è quello probabilmente più vicino al mondo dei giovani, e invece non quello del vino, che appunto, come dice Davide Paolini, non si pubblicizza. Insomma, è uno di quei prodotti che si pubblicizza con il passaparola, con la conoscenza, no? Con la degustazione. Molti prodotti, chiamiamoli così, di alta gamma dell'alimentare si pubblicizzano con il tam tam, con diciamo le degustazioni e con altro, ma il motivo è molto semplice: non ci sono soldi. Esatto. Il problema è che il fatturato non permette di investire in televisione o di investire in mezzi molto, molto potenti. Questo secondo me è un vantaggio importante. Io spero che rimanga così, perché appunto la scelta non è un'influenza, chiamiamola, pubblicitaria sul consumatore, ma rimane una scelta molto più volontaristica che imposta. Quel vino di cui abbiamo parlato, di cui si fa molta pubblicità in televisione, in radio, un po' dappertutto, devo dire che ha questo vantaggio enorme ormai di essere anche molto diffuso. Credo che probabilmente non avrebbe più bisogno di pubblicità, perché veramente è diffuso. Lì bisognerebbe capire se è stata la pubblicità che ha influito, oppure se il prezzo, oppure appunto su tante altre, diciamo, ragioni, non lo so. Io non credo che la pubblicità abbia influito in maniera così grossolana, però quell'ultimo spot che era stato fatto, che dava l'idea appunto di naturalità, sì, e dava quel tipo di qualità, sì, ecco, quello secondo me ha influito sugli indecisi. Ecco, per togliere il pregiudizio, no? Ecco, per dire, sì, comunque è stato di un buon vino. Ecco, non è un vino fatto con le famose polverine, no? Di cui si parlava. Sì, perché ecco, tempo ogni tanto, cioè, ecco, diciamo che togliamo subito, ecco, questo dogma inutile. Cioè, il vino, sì, ci sono i kit per fare il vino, tant'è vero che in Inghilterra vanno moltissimo forte, e addirittura c'è un kit che è stato denunciato dal Chianti Classico, quello nero, che era un kit per farsi a casa il Chianti Classico, quindi sicuramente il kit per farselo in casa ci sono, quindi in molte parti del mondo ci sono, ma in Italia con la cultura più o meno del vino che c'è, sì, abbiamo avuto lo scandalo del metanolo. Sì, d'accordo, ci sono stati, però. Però credo che nessuno creda più alla Befana. Esatto, insomma, quindi insomma, niente polverine, a noi il vino si fa e basta. Sì, ma perché tu citavi prima la canzone, a noi ci piace bere il vino, come diceva quella canzone, la poesia romana, molto bella, quindi sicuramente della Ferri, mi ricordo, ed è una canzone bellissima, che diceva a noi ci piace il vino, ci piace il vino, proprio così, senza bisogno della pubblicità. Esatto, grazie Davide Paolini, ciao, buona domenica. A presto, ciao. Ciao, grazie. Per voi, biglietto d'ingresso per la mostra a Genova, Palazzo Ducale, Miró, Poesia e Luce, e soprattutto il bellissimo catalogo della mostra. Miró in 24 minuti. Dovete associare un'opera di Miró, non è neanche così difficile perché la maggioranza delle opere di Miró non hanno titolo, per cui abbiamo dovuto scegliere quelle con appunto un titolo, che non sono tante. Dicevo, associare una delle opere di Miró alla canzone che sto per proporre, che ci riesce, appunto, biglietto d'ingresso e catalogo. Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccio. Eccolo qui, questo è Poveri, vorrei avere il becco, che Marina da Reggio Emilia associa a un'opera. Ciao Marina, buona domenica. Ciao. Allora, quale opera di Miró potrebbe essere associata a questa canzone di Povia, Marina? Sono indecisa. Lo so che... Allora, è quella col titolo più lungo. Ah, allora Uccelli? No, ho detto quella col titolo più lungo. Oh. Uccelli è corto, è una parola sola. Niente. Che rabbia. Ciao. Ciao Marina, buongiorno, mi dispiace. 800 24 00 24, Luca da Roma. Buongiorno. Ciao Luca. Allora, La risposta secondo me è il piccione ammaestrato. No, scusa, no, no Luca. No, mi dispiace. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao. Clara da Torino. Clara. Sì, buongiorno. Ciao Clara. Allora, io ci trovo. Aspetta. Aspetta. Allora. Sì. È giusto, la nostra amica di prima ha detto Uccelli, in realtà è un singolare, uccello, che è in qualche modo. Com'è questo uccello, Clara? Allora, non lo so, dunque. Ma io ho pensato, ma se mi dici così, non forse sbaglio, persona che tira un sasso a un uccello. No, non è quello. Non è quello. Mi dispiace, Clara. Anche a me. Mi dispiace. Allora, siamo ancora con questa opera di Miró. Vi aiuto, è una scultura. 800 24 00 24. Miró in 24 minuti. Andiamo a essere riusciti a portarvi a casa biglietto d'ingresso e il catalogo della mostra. Giorgio da Ragusa, buongiorno Giorgio. Buongiorno. Allora. Sì, potrebbe essere sicura che lancia una pietra o un uccello. L'abbiamo già detto e quindi non è. Abbiamo già detto che non è. Allora, è un uccello che è in qualche modo. Com'è che può essere? Allora, l'uccello di solito è il verbo associato, quando è appoggiato, com'è che si dice? Volare. No, quando è appoggiato, vola, quando vola. Ma quando è appoggiato, l'uccello è... Appollaiato. Appollaiato dove? Appollaiato... non saprei. Dove può essere appollaiato l'uccello? Su... Su un balcone. No, ne ha né su un ramo né su un balcone. Mi dispiace, Giorgio. Che rabbia. Ciao, grazie. Ciao, 800 24 00 24. C'è Giancarlo da Pisa che mi dà la risposta giusta, vero Giancarlo? Ma ci provo. Dove può essere appollaiato? L'uccello appollaiato dove? Su? Su donna. Giancarlo, un birbante sei tu, altro che, sei un birbante e la risposta non è mica giusta. Sì, lo sapevo perché non poteva essere, però diciamo che è una risposta da pisano, questo ci fa solo piacere, l'ironia giusta, grazie Giancarlo, ciao. Ma tu guarda, ma che ascoltatori che ho. Laura da Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora ci provo anch'io. Dai che credo che sia la scultura che si chiama Dona I Ocelo, un nome del genere. Ma allora, Laura, ma non mi hai ascoltato. Sì. Il titolo dell'opera è Uccello appollaiato su che cosa? Uccello appollaiato su un laghetto. No, non è appollaiato sul laghetto. Niente, è la cosa più semplice del mondo, ma è proprio la cosa più Ciao Laura, grazie. Arrivederci. Ciao, grazie. 800 24 00 24, c'è Luisella da Biella. Luisella. Sì, allora proviamo anche noi. Sì, ma dammi la risposta giusta però, eh. Sì. Allora, con calma. Uccello appollaiato su un albero. Adesso voglio dire, cioè non era così difficile, dove no. Poteva essere appollaiato l'uccello? Sono sull'albero. Poteva anche essere su una spalla. Va bene, è vero, ma è un po' più difficile e quindi giusto, per te il catalogo della mostra Miro Poesia e Luce e l'ingresso per la mostra a Genova fino al 7 aprile. Grazie Luisella, grazie, complimenti. Grazie. Allora 800 24 00 24 c'è un altro, come si dice, un'altra opera da indovinare, si tratta di un quadro questa volta e vi aiuterò in tutti i modi possibili e ascoltate questa canzone di Fabrizio De André. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Questa è una famosissima canzone di Fabrizio De André, si intitola Via del Campo e nel testo e nel titolo contiene il titolo dell'opera di Miro che vorrei che voi mi diceste. Allora, Angelo da Salerno, ciao, buona domenica. Grazie anche a voi. Allora, Angelo, conosci questa canzone di Fabrizio De André? Sì, sì, sì, moltissimo. Ok, sì. Allora, in generale parla... I personaggi raccontati in questa canzone sono tutti di un sesso femminile. Femminile. Quindi abbiamo una. Una che cosa? Una femmina. È una prostituta. Una... No, no, no, no, no, no, no, è quello è uno dei personaggi. Sì. Siccome parliamo di sesso femminile, abbiamo come protagonista una. Donna. Una donna, ecco. E come si intitola la canzone? Via del campo, giusto? Sì. Quindi l'opera di Miro è donna dove? Donna nella... Donna nella casa? Dove? Dov'è la donna? Nella casa? Non è nella casa, la canzone è Via del campo, per cui... Non è nella casa, Angelo, io ti ho cercato di aiutare in tutti i modi, ma niente da fare, mi dispiace. Ciao grazie, Angelo. Grazie, salve. Ciao, grazie a te. Alessandra da Alessandria. Andrea. Pronto, giusto? Sì, ecco. Sì, dovessi spegnere la radio, Alessandra, grazie. Vediamo, sì. Ecco, spenta, perfetto. Alessandra, mi dici allora il titolo dell'opera di Miro... che vorrei che tu indovinassi? L'opera. Allora, donna dove? Nella? Nella piazza. Nella piazza. Non è nella piazza, Alessandra, visto che il titolo della canzone era Via del Campo, per cui non è né nella casa né nella piazza. Grazie, Alessandra. Ciao, grazie. Niente, ciao. 800 24 00 24 per cercare di portarvi a casa il biglietto d'ingresso per la mostra Miro Poesia e Luce e il catalogo, ovviamente, della mostra. Siamo quasi agli sgoccioli. Vediamo, sì, che arriva. Lo vedo, vedo di là. Pronto. Vediamo se non è saltata, sta arrivando. Scusate, Vincenzo da Rimini. Eccoci qua. Vincenzo. Ecco, sì, buongiorno, ciao. Grazie, anche tu spegni la radio per cortesia. Allora, Vincenzo, dammi il titolo dell'opera. Donna dove? Nella... Nel campo? Non è donna nel campo. Grazie. Niente da fare, Vincenzo. Basta, mi dispiace. Quindi questa canzone rimarrà quella per la settimana prossima, ovviamente. Quindi cercate di memorizzare quale possa essere il titolo dell'opera, ma devo dire che è molto molto facile. Grazie a tutti, Riposo del Guerriero torna ovviamente domenica prossima, puntuale alle 10 con un nuovo argomento. Vi ricordo anche la pagina di Facebook dove troverete i link alle pubblicità delle quali abbiamo parlato oggi. Settimana prossima ovviamente nuovo argomento. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Nadia Zammitti in assistenza, Filippo Oreggi in regia e grazie a voi. Buona settimana da Stefano Gallerini.